La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci alla Rosa Purpurea, eccoci allora di Cinema di Radio 24, un saluto da Franco D'Assisi, prima puntata di febbraio è il mese degli Oscar ed è il mese in cui molti film che parteciperanno alla Notte delle Statuette il 26 febbraio arrivano nelle sale. Settimana scorsa è stata monopolizzata in un certo senso dall'arrivo di La La Land, che aveva accaparrato il maggior numero, un numero record di candidature, ben 14, che sta ottenendo grande successo nelle sale, anche nelle sale cinematografiche italiane, dove è già arrivato circa 3 milioni di incasso, li supererà probabilmente durante questo fine settimana. È stato il film più visto in tutti i singoli giorni della settimana, ma se ne affacciano altri. Abbiamo parlato ampiamente del film con Ryan Gosling ed Emma Stone la settimana scorsa, dicevo, se ne affacciano altri di film da Oscar nei nostri cinema. Ne sono usciti di nuovi, ne parleremo con Boris Sollazzo, che è già in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, un buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Boris, partiamo un po' da due film, prima uno poi l'altro, ma due film che hanno qualcosa in comune, lo scopriremo chiacchierando insieme, ovvero Billy Lynn di Ang Lee e più tardi parleremo invece di Hacksaw Ridge di Mel Gibson, due film di guerra, sulla guerra e soprattutto sugli esiti che la guerra ha sugli individui, quando gli individui a un certo punto non seguono, diciamo, il mainstream che la guerra vorrebbe imporre, ma cercano in qualche modo di deviare. Sono due riflessioni di due autori completamente diversi, ma che, guarda caso, arrivano nelle sale nella stessa settimana. Allora ci piace affrontarle in maniera abbastanza organica. Cominciamo con Billy Lynn, ascoltiamo questa clip. Billy, e se non andassi? Devo, Cat. Mi sono preso un impegno. Ho ancora tanto da camminare. E io sarò qui ad aspettarti. A che dobbiamo il piacere del tuo arruolamento, soldato Lynn? Bella porto di guerriero, mi sono rivelato. Pensa che lo fai per qualcosa più grande di te stesso. Sono combattenti. Ti guiderà l'addestramento. Dirige Ang Lee questa storia particolare, molto particolare, su un soldato 19enne, Billy Lynn appunto, ed è il vero narratore della storia, con i suoi occhi che vediamo la storia, che in Iraq ha condotto un'azione, una coraggiosa azione di guerra, che per caso è finita nei TG. È finita nei TG e lui è diventato un eroe, perché eroico è stato sicuramente il gesto che ha compiuto, eroico ma pieno di retroscena, anche molto pesanti da sopportare, ma che le telecamere invece non hanno preso, perché le telecamere dentro l'anima di Billy Lynn non ci sono andate. Ebbene, diventano degli eroi per caso, per volontà, quelli della squadra Bravo, di cui fa parte appunto Billy, e vengono invitati in patria, un rimpatrio di una quindicina di giorni per una sorta di victory tour, interviste TV, visita alla Casa Bianca, comizi pubblici e soprattutto la presenza alla partita di football americano del giorno del ringraziamento, che è una delle partite più importanti, con il Super Bowl come evento nazionale americano. È lì proprio nel contrasto fra la festa di questo stadio enorme, fra le aspettative che il pubblico ha ogni volta che le telecamere dello stadio si fermano sui volti dei ragazzi della Bravo, e quello che è il tormento interiore di Billy Lynn. Ecco, è proprio in questo contrasto che si gioca il film di Ang Lee, per raccontarci appunto una storia dalla quale il protagonista in qualche modo vorrebbe scappare, ma forse è un protagonista che non ha più un posto, non ha più un posto. Quello che è successo in Iraq lo ha segnato per sempre e lo rende anormale nel confronto con la sua famiglia, con la sua fidanzata. Quello che invece potrebbe risuccedere tornando in Iraq, gli farebbe venire voglia di restare dov'è. È davvero ormai un pesce fuor d'acqua. Boris, un film di grande impatto, anche di una certa modernità registica, sebbene magari Ang Lee in certi momenti non mi sembri molto a suo agio col genere bellico, però devo dire che va lodata, a mio modo di vedere, proprio questo punto di vista, questo taglio che è stato dato alla figura di un giovane soldato, di un giovane uomo alle prese con qualcosa di più grande di lui. Sì, assolutamente sì, ricordo in qualche modo The Messenger, dove la guerra veniva vista solo attraverso le due persone che erano costrette a dare la notizia della morte di un soldato ai propri familiari, quindi la guerra veniva vista di riflesso in uno specchio deformante, apparentemente meno doloroso perché non vedevi pallottole squarciare corpi, ma forse molto più lacerante. In questo senso il film di Ang Lee è più interessante, sperimentale e coraggioso di quanto sia effettivamente riuscito, secondo me. Però tutte questi spunti di riflessione, sia visiva che contenutistica, che tiene in sé, secondo me lo fanno essere un film che è assolutamente da vedere per tanti motivi. Uno è che Ang Lee prende la guerra e la rovescia di senso continuamente. Si dice che la storia la scrivono i vincitori. Bene, la storia adesso la scrivono le televisioni. La dimostrazione è quello che succede a Billy Lynn. Ci sono pochi fotogrammi che lo immortalano e la sua storia cambia radicalmente, cambia soprattutto l'emotività e la ragione di alcuni gesti che chiaramente diventano di paternità nazionale e in quanto tali vengono interpretati dallo Stato intero e dalla TV intera, ma prendendo solo una porzione. In questo senso ricorda molto il processo di Sully di Clint Eastwood, dove c'è una verità, poi c'è una verità televisiva e infine c'è una verità giudiziaria. Qui non siamo molto lontani da quel tipo di racconto. La guerra viene presa e forse, come ha fatto in vita D.P., Ang Lee la cosa più riuscita la fa nel cambiare genere continuamente, perché in alcuni momenti è una parodia, vedi la presenza di Steve Martin, in alcuni momenti è un vero e proprio dramma, in altri momenti è un melodramma, genere forse più amato da Ang Lee, e sono quelli probabilmente i momenti più riusciti del film, in altri è un vero e proprio film di guerra, un film bellico appunto. E tutto questo viene iper saturato da questo esperimento visivo mai provato prima dei 120 fotogrammi al secondo. Se avete avuto dei problemi a guardare lo Hobbit, che era 48 fotogrammi al secondo, immaginate questo film. Qual è il problema? Che in Italia non lo vedrete mai, però, perché è stato proiettato in questa maniera solo in 5 sale degli Stati Uniti. Ripeto, è un film molto interessante, è un film che secondo me fa fare un passo avanti alla sperimentazione visiva, è un Ang Lee che con Vita D.P. ha cambiato il proprio modo di girare e di raccontare, gioca molto sugli inganni che l'immaginazione, la fantasia e l'immaginario imposto fa, e quindi è sicuramente un processo che va seguito con attenzione. Forse rispetto a Vita D.P. è molto meno riuscito questo, ma anche perché era molto più difficile come esperimento. E allora questo è il film d'apertura della nostra Rosa Purpurea, Billy Lynn. Rimarremo alla guerra, ma una guerra di tanti anni prima. Ci sposteremo alla Seconda Guerra Mondiale, alla battaglia di Okinawa, fra poco con la battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson. Debora, ci sei? Sì, ma ho un dolorino un po' qua dietro al collo. Perfetto, cadi a fagiolo tempismo, magnifico, perché a febbraio, cuore denari, è il mese delle articolazioni. Il professor Carlo Selmi, che è responsabile di reumatologia e immunologia clinica a Humanitas, ma anche docente all'Università degli Studi di Milano, ti rimetterà sicuramente a posto e soprattutto ci farà capire se ti lamenti di gamba buona. Mi sento già meglio, però mi è rimasto un po' di bruciorino di stomaco. Ma Debora, dai, ce l'hai tutte tu. Dai, ascolta Cuore Denari, ogni mese un consiglio per investire in salute. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, la Rosa Purpurea, dicevamo è una settimana bellica al cinema, non solo, più tardi avremo anche qualche risata da farci con Smetto Quando Voglio, con Edoardo Leo e Sidney Sibilia che saranno qui con noi, però concentriamoci ancora sulla notte degli Oscar. Abbiamo detto arrivano film da Oscar, ebbene la battaglia di Hacksaw Ridge di nomination ne ha prese 6, è il nuovo film di Mel Gibson e racconta la storia incredibile ma vera di un obiettore di coscienza che si buttò dentro una delle battaglie più sanguinose di tutti i tempi per salvare la vita a chiunque dei suoi commilitoni fosse in pericolo. Lo faceva senza armi, lo fece per 75 persone e diventò un eroe nazionale. Capitano, venga a vedere una cosa. Hanno calato i nostri dalla scarpata per tutta la notte. C'è perfino Hollywood. Pensavo che fosse morto. Venga con me, è qui. Ma che sta succedendo? Salve, signore. Salve, capitano. Capitano, sono contento di vederti. Signor capitano, come hai fatto a scendere? Doss, Howell è rimasto là. Sono stati Doss e Howell? No, solo Doss. Solo Doss? Solo Doss. Sì, Doss il vigliacco. Desmond Doss, il vigliacco, sentite dalla clip, perché è un obiettore di coscienza, perché ha detto io voglio servire il mio paese ma lo voglio fare senza armi, perché è un credente, un cristiano di grande, cristiano avventista, di grande passione religiosa, e cerca di far sposare le due cose che in quell'America, in quell'esercito, in quegli Stati Uniti, e forse chissà, forse anche negli eserciti di oggi non sono assolutamente facili da sposare. Voler servire il proprio paese, ma insieme voler essere obiettore di coscienza. Come farlo? Attraverso il ruolo di assistente medico, e quindi di essere sul campo di battaglia per salvare delle vite, non per ferirne delle altre. Il protocollo prevederebbe un'arma a difesa. Desmond Doss non vuole armi nemmeno in sua difesa, ma combinerà una delle cose più incredibili che vivono dentro questo film, grazie alla regia di Mel Gibson, ma vivono anche alla fine del film con le immagini vere del vero Desmond Doss, che veramente regalano un grande brivido. Dicevamo, la regia di Mel Gibson. Mel Gibson è un regista, a mio modo di vedere, di grande livello, di grandissimo livello. Come sa muovere la macchina da presa, come sa riprendere e inquadrare soprattutto questi eroi solitari. In fondo non lo era anche il Gesù raccontato nel suo film, e lo sono stati molti dei suoi protagonisti. È un regista, qualcuno ha detto un regista del martirio, perché effettivamente porta alle estreme conseguenze sempre la storia del suo protagonista. È un regista che gode fra virgolette purtroppo anche di una di un pregiudizio negativo dovuto al fatto di essere un integralista cristiano, e questa cosa gli ha provocato tanti problemi a Hollywood e non solo. Però insomma, noi cerchiamo sempre di dividere quelle che sono le sue idee dal cinema che fa, e il cinema che fa a Cipicchia se è un cinema efficace. Boris, non so se il tuo stomaco si è contorto durante la visione di Oxo Ridge, il mio sicuramente sì. Ma guarda, io tra l'altro ho smesso di piangere da poco, quindi insomma, questo per farvi capire che sarà anche un integralista cristiano, sarà un antisemita, ma poi quando io vedo un dipinto di Caravaggio mi scordo che era un omicida. Purtroppo l'arte funziona così, non puoi e non devi farti condizionare dalla vita personale e dalle idee personali e dalle ideologie personali degli artisti. Del resto Boris, hanno detto anche che Leni Riefenstahl era nazista, no? Esatto, quindi insomma ne abbiamo più e più esempi. Il film di Mel Gibson è affascinante, come spesso capita con le logiche distributive italiane, che esca nella stessa settimana in Italia di quello di Ang Lee, perché non potrebbero esserci due film più diversi, tanto è complesso visivamente quello di Ang Lee quanto è semplice visivamente quello di Mel Gibson. Ma quando diciamo semplice non è un difetto, la semplicità di Mel Gibson è una semplicità nitida, limpida, straordinaria. Ci sono i registi di battaglie e ci sono i registi di battaglia. Lui è un regista di battaglia. Quando tu dicevi che fa un cinema del martirio, è vero, tutti i suoi protagonisti, nei suoi film da regista, tutti sono uomini soli contro tutti, a volte anche contro se stessi, tutti vengono in qualche modo crocifissi ingiustamente e tutti combattono la propria battaglia portando alla fine le persone dalla propria parte. È in fondo non solo la storia più antica del mondo, ma anche il sogno più antico del mondo, che chi è nel giusto riesca in qualche modo a un certo punto a portare dalla sua parte tutti gli altri, magari con qualcosa di eroico, sia sacrificarsi con un calvario, sia viverlo un calvario e salvare non tutto il mondo, come ha fatto Gesù Cristo in The Passion, ma solamente 75 persone. Ma solamente 75 persone in una notte a Oxo Ridge, con tutto il rispetto per le divinità, è davvero un miracolo straordinario. Che cosa fa Mel Gibson? Si concentra sul campo di battaglia, come se fosse un Malik, ma il cui eroe è sostanzialmente senza armi, anzi non sostanzialmente, è proprio senza armi. Il problema della sua obiezione di coscienza non nasce finché lui è sul campo di battaglia, e questo è un paradosso incredibile, ma nel momento in cui si deve addestrare. E questo ci dice tutto. E anche per quanto riguarda Mel Gibson succede la stessa cosa. Finché c'è la preparazione alla battaglia, il film magari zoppica un po', è un po' televisivo, ci sono degli stereotipi molto forti, noi lo sappiamo, lui non è un regista delle sfumature, è un regista che ci va con l'accetta, quindi la donna che aspetta Andrew Garfield è ovviamente bellissima, la vita che lui faceva con la sua famiglia è ovviamente bellissima, la decisione che prende è granitica. Nel momento in cui si arriva al campo di battaglia, nel momento in cui c'è il sangue, nel momento in cui c'è il dolore, nel momento in cui c'è la sofferenza, Mel Gibson diventa uno dei registi più straordinari del cinema moderno, riesce a trovare tutte quelle sfumature che fino a quel momento aveva trascurato, riesce a trovare tutta l'epica, l'eroismo, e davvero fa un cinema classico, tanto sperimentale quello di Ang Lee quanto classico il suo, ma a livelli di orizzonti di gloria, a livelli altissimi, a livelli che appunto ti prendono, ti fanno contorcere le budella, ti fanno piangere, ti fanno essere lì con Desmond Doss, pieno di sangue, di fango, non sai se il tuo o quello degli altri, e in qualche modo senti persino la fatica di tutti quei 75 corpi portati giù. Ecco, la grandezza di Mel Gibson è questa. Non so se è il regista del martirio, di sicuro è il regista del corpo, come racconta lui il corpo, le sofferenze del corpo e come possa passare per il corpo il sacrificio non lo fa nessuno, ed è davvero un film straordinario a mio parere, Oxy Ridge, che merita tutte e sei le nomination che ha preso. Ti attacchi come la colla. Mi dia questo. È un po' tardi per imparare a sparare, non credi? Venga qui. Scherzi? No, la porto io. Fare come è. Non ce l'ho. Va bene. Pronto? Sì. Forza! Abbiamo compagnia! Forza! Postilla, qualcuno ha parlato di film reazionario, trovo che sia uno dei film più pacifisti che si siano visti negli ultimi tempi. Certo, stride un po' e magari dà fastidio a qualcuno che arrivi proprio da un regista con il pedigree personale di Mel Gibson. Allora, siamo arrivati al momento di giocare, però fra poco parliamo di un altro film da Oscar nella categoria documentari, di giocare con il nostro film misterioso. Ascoltiamo la prima traccia. Squadra Alfa, rapporto. Che succede, Ed? La squadra Alfa non mi risponde. Bravo. Ancora niente. Perse due squadre, riprendi il controllo della situazione. E allora, è un film, avete sentito, squadre, insomma, di film d'azione ovviamente, un film d'azione recente. Se l'avete già indovinato, scriveteci alla rosapurpure@radio24.it con il titolo del film e il vostro indirizzo privato per provare ad accaparrarsi una delle due copie in Blu-ray di questo film, di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Allora, dicevamo, avanti ancora con gli Oscar, perché fra le uscite di questa settimana ce n'è anche una molto particolare di cui vogliamo parlarvi, che si intitola Life Animated. There is a boy who is just like other boys. Until one night he sees from his window a storm on the horizon. Avete sentito la clip in lingua originale, la storia di un bambino, il cui, come dire, la cui grave sindrome, che è quella di una forma di autismo piuttosto importante, viene sbloccata in qualche modo dai film Disney, dalla Sirenetta, dal Re Leone, da Aladdin, i classici della Disney. È Life Animated, un documentario che concorrerà tra l'altro contro il nostro fuoco a mare nella categoria documentari agli Oscar, ma veramente, Boris, che apre uno squarcio su un mondo che davvero non conosciamo, e lo fa tra l'altro con una capacità di intrattenimento che uno stenterebbe a credere possa essere associata a una tematica di questo tipo. Assolutamente sì, io vi consiglio una cosa in generale in questo fine settimana: chiudetevi in un cinema e uscitene domenica sera, perché davvero ci sono film tutti straordinariamente interessanti. Life Animated in qualche modo forse sarà l'emotività, ma il cinema è anche emozione. È il mio consiglio della settimana, perché parla di Owen Suskind. Chi è Owen Suskind? Non è un ragazzo autistico, non è un fiero ragazzo autistico, come dice in una conferenza in Francia davanti a luminari e a persone che si sono riunite per parlare dell'autismo. È un eroe, è il nostro eroe, il mio eroe sicuramente, Che cosa fa? Lui a 3 anni era Peter Pan, era un ragazzo gioioso, era un bambino che molto più sveglio della sua età, giocava ad essere Peter Pan e Capitano Uncino col padre, Ron Susskind, uno dei più grandi reporter del Wall Street Journal. A un certo punto a 3 anni viene rinchiuso nella prigione dell'autismo. Viene rinchiuso nella prigione dell'autismo, regredisce, non riesce più a parlare. L'unica cosa che lo fa stare tranquillo è vedere i film Disney. Un giorno, vedendo la sirenetta, sente la frase «Devi rinunciare alla tua voce» e la ripete. È la prima frase che dice da quando è diventato autistico. Da quel momento inizia una missione di salvataggio. Ron e Cornelia Susskind, che sono i genitori, ma anche suo fratello, cominciano attraverso Disney a cercare di scalare quella torre in cui è imprigionato il loro fratello, il loro figlio. È un grandissimo film d'avventura, è uno straordinario film di formazione. Noi lo seguiamo dai 3 anni fino ai 27 anni, perché Owen Susskind è una storia vera, addirittura si laureerà. E questo lo fa grazie a quel dizionario immenso che è la cinematografia Disney. È una storia meravigliosamente raccontata da un regista che attraverso l'arma del documentario, del repertorio di video amatoriali casalinghi, dei fotogrammi, dei film Disney, ci fa capire come questo ragazzo è cresciuto fino a diventare il Quasimodo di se stesso. Quasimodo alla fine della sua storia non conquista la ragazza come in tutti i film Disney, però viene accettato dalla società e non è più un outcast, non è più un emarginato. E questa è la storia della mia vita, dicevo, Owen Susskind. Noi abbiamo il privilegio di viverla in un film che è alto cinema, perché usa tutta la tavolozza dei colori che il cinema può dare, anche negli schemi di un documentario. È anche uno straordinario film di finzione, come dicevo, un film d'avventura, un film su un eroe, e allo stesso tempo abbiamo il privilegio di assistere a una storia che ci educa a noi come figli, come genitori, perché ci dice che l'autismo è solo un altro modo di essere, non è un modo di essere minore. Owen Susskind è più profondo di noi, probabilmente, è più intelligente di noi, lo è solo in maniera diversa, in maniera differente da quello a cui siamo abituati dagli stereotipi. Quindi andate a vederlo, perché è un film prezioso, è un film, se sarete accorti, che emoziona anche nel momento in cui lo riracconti, ed è un film che ci dice molto della nostra vita e di quanto forse siamo miopi, e ci può aiutare proprio la sirenetta, il Re Leone, il Gobbo di Notre Dame. E qualcuno li chiama solo cartoni animati. Allora diamo la linea alla regia, perché fra poco saranno con noi Edoardo Leo, Sidney Sibilia, per parlarci di Smetto Quando Voglio Masterclass. Sono Enrico Ruggeri, tutti mercoledì voleremo sulle ali di carta raccontando i grandi personaggi della letteratura. E partiamo con una grande donna, Penelope, la regina che ha aspettato per 20 anni il re, Ulisse. Alle 15.30 vi aspetto su Radio 24. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Roni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. La rosa purpurea. Torniamo insieme alla Rosa Purpurea per parlare di cinema italiano, il film più atteso di questa settimana, senza dubbio, e siamo certi anche quello che probabilmente troveremo, se non più in alto, fra i più alti posti della classifica, è Smetto Quando Voglio 2, Masterclass, un film che segue il successo ampio e forse in parte anche insperato del primo film, Smetto Quando Voglio, e ritrova tutta insieme la banda dei ricercatori che questa volta cercherà un po' di farsi perdonare, sebbene attraverso vie piuttosto impervie. Quindi ti danno tutti i permessi che vuoi? Se sto qui e io potrei uscire dal rehab. Se te la senti, sì. Ma certo che me la sento. Alberto, avrei a che fare tutti i giorni con ogni tipo di droga, non è che poi fai la fine dell'altra. Stai tranquillo, te lo giuro, non ho più nessun problema con la droga. Guarda che è una cosa seria. Abbiamo un'occasione unica. Possiamo porre rimedio a tutti i casini che abbiamo combinato, però non possiamo sgarrare. Pietro, ti supplico, fammi uscire da qua, non ce la faccio più a fare madonne. Niente più mignotte, niente più cappotti di lana di Londra da 10.000 euro, niente più macchine sportive, ma soprattutto niente droga. Niente mignotte, niente cappotti, niente macchine. Ricevuto. E allora, ricevuto, ma insomma non troppo, forse fino a un certo punto, per questa banda di ricercatori che, ricorderete, nel primo film sintetizzava una droga legale e grazie a questo, come dire, spopolava, e che in questo film invece deve cercare di impedire che altre droghe legali, cioè che stanno in quel margine fra la legalità, il conosciuto e lo sconosciuto, possano prendere ulteriormente piede. Lo faranno sotto copertura della polizia, e così l'archeologo, l'economista, il chimico, il neurobiologo, insomma questa sarabanda di personaggi si impegneranno se stessi, ci faranno sorridere, ci faranno ridere, addirittura ci sarà una sorta di assalto al treno, proprio come nei film d'azione che si rispettano. Boris, un film che lascia un pochino di più la tematica, diciamo la parte più impegnata o comunque sociale alle spalle, e si butta nell'azione e nel divertimento. Ed è questo il segreto, secondo me, del fatto che Smetto quando voglio forse è ancora migliore del primo, o comunque sicuramente diverso dal primo. Passiamo dalla commedia amara sul precariato, con un precariato molto ben conosciuto dal pubblico, ma ben poco dai produttori e dai registi, che viene raccontato in maniera farsesca, perché purtroppo il precariato in Italia in questo momento è farsa. Non avrebbe più fatto ridere un altro film di quel tipo, perché non avrebbe avuto più l'effetto sorpresa, e perché forse poi la farsa diventa tragedia o la tragedia diventa farsa, ma nel secondo passaggio appunto non si può tenere lo stesso tenore, lo stesso tono. E quindi che cosa fa Sidney Sibilia con tutta la sua banda? Decide di fare un action. Possiamo già fare un piccolo spoiler sul terzo, che sarà addirittura un disaster movie. Questo ci fa capire quanto sia ambizioso produttivamente, registicamente, attorialmente questo progetto, perché parliamo di una saga di 3 capitoli, ed è proprio questo il segreto di Smetto quando voglio: l'ambizione di poter fare, come è successo per Veloce come il vento, come è successo per Lo chiamavano Gigrobo, come è successo a suo modo per Perfetti sconosciuti, di poter raccontare storie che normalmente al cinema italiano venivano negate da una sorta di autocensura. Non ci consideravamo non capaci, perché non avevamo la statura anche economica per portare avanti determinati generi come l'action movie, perché questo è un action movie. Si parte dal primo capitolo, dove l'ispirazione è puramente televisiva, Breaking Bad, si arriva a questo Smetto quando voglio, che è un incrocio tra i Ghostbusters e Ocean's Eleven, e questo vi fa capire il salto che fa Sidney Sibilia come regista, che diventa più maturo a livello d'immagine, ma anche gli attori, che trovano una coralità molto più complessa, molto più interessante, magari meno divertente in senso stretto, si ride di meno, si sorride di più, ma anche più profonda, più articolata, più interessante. Fino a quello che tu dicevi, appunto, l'assalto al treno, avremmo mai immaginato di pensare a Edoardo Leo e Luigi Locascio su un treno a combattere? No, probabilmente no, magari Hugh Jackman e Brad Pitt sì, ma loro due proprio no, e ci riescono, sono credibili, sono straordinariamente in parte, e questo è il segreto di Smetto quando voglio, che è un film interessantissimo, è il primo vero action movie italiano fatto con i mezzi e le produzioni che siamo abituati a vedere da altre cinematografie ed altre industrie, ed è assolutamente credibile, pur nella surrealtà di un racconto che vede una banda riformarsi per cercare 30 droghe legali, con una polizia che si fa complice di reati per estinguere altri reati. Anche questo tipo di sceneggiatura è una sceneggiatura a cui non siamo abituati, in un paese in cui buoni e cattivi spesso sono costruiti con l'accetta. Quindi è un gran film, a mio parere migliore del primo, è un grande passo in avanti sia per il cinema italiano sia per Sidney Sibilia, e fa piacere che ci sia questa ondata di trentenni in tutto il mondo, parlo di Chazelle, parlo di Dolan e parlo anche, con le debite proporzioni, di Sibilia, che portano avanti l'asticella più in alto l'asticella del cinema, in questo caso quello italiano. E allora, proprio di questo abbiamo chiacchierato con Sidney Sibilia e con Edoardo Leo, partendo proprio dalla collocazione nel panorama italiano di questo film. Sentiamo. È in uno strano limbo di azione all'italiana divertente, nel senso che per noi è stata un po' una scoperta, perché Le commedie americane sono piene d'azione, sempre, cioè c'è sempre una o due sequenze incredibili. E da lì mi sono reso conto, mentre lo scrivevamo ancora di più mentre lo giravo, che c'è una differenza sostanziale tra la comicità della tradizione italiana e la comicità americana. La comicità americana va sul beat, no? Dicono una battuta, ho scelto il giorno sbagliato per smettere di fumare, e poi si cominciano a menarsi. Invece da noi è una comicità molto più verbosa, soprattutto che smetto quando voglio, perché loro si parlano addosso continuamente. E quindi abbiamo cercato di fondere queste due cose e credo che sia venuto proprio fuori una roba completamente nuova. Io spero proprio che si cavalchi un pochino, perché fa ridere nonostante siano su un treno in corsa o in fuga tra i reperti della Roma antica. È anche vero che il principio di smetto quando voglio è prendere dei professori universitari e immergerli continuamente in delle situazioni a loro non congeniali, e quindi è un po' questo che mi piaceva, e alzando l'asticella la alzi. E poi mi divertiva sorprendere lo spettatore, cioè non ridargli la copia carbone del primo film, altrimenti non l'avremmo fatto, non ci saremmo messi a fare un'operazione del genere, perché non ha senso. E quindi l'abbiamo completamente spostata, spostando sempre l'universo di Smetto Quando Voglio i loro personaggi sempre verso l'alto, fino ad arrivare al terzo capitolo, di cui si parlerà più tardi. Ne parleremo. Senti, invece c'è dentro anche un po', secondo me, del cinema più recente di supereroi americani. Penso a Suicide Squad, per esempio, no? Cioè a film nei quali, anche parlando di supereroi e alla supereroi, però la matrice del divertimento e dell'ironia è più importante quasi della storia. Allora, io non guardo i film sui supereroi, non guardo il cinema americano d'azione, mi annoia terribilmente. Io mi sono addormentato a Face Off, anche di John Woo, lo so, però io lo so, sarà anche John Woo, ma io dicevo John Woo. Perché per me io ho trovato, quando due si scambiano la faccia, io già vedo due che volano. No, per me no, è proprio un universo di riferimento diverso. Io non ho neanche visto Breaking Bad, per esempio, che tutti hanno detto è ispirato a Breaking Bad. Credo che tutto questo sia un vantaggio per me, perché mi immergo in un contesto in cui mi lascio guidare dalla visione di un regista, che siccome sto facendo qualcosa di molto lontano da quello anche che scrivo ed anche dalle cose che dirigo, ed è il motivo per cui mi piace fare queste cose, mi prendo il lusso come attore di fare una roba molto diversa. E quindi mi sono affidato in questo anche alla scrittura. Ho tentato di fare cosa che non faccio su altri film. Ho tentato di prendere la sceneggiatura come una partitura. Cioè spesso tu prendi una frase, una battuta, e cerchi di portarla a te. Cerchi di invertire le parole, cerchi di adattartela. Siccome questo Pietro Zinni in questo contesto qua parla in quel modo così, così particolare, ho tentato di forzarmi a leggere, ad affare proprio la memoria, lui lo sa, io facevo la memoria proprio scientifica, di non mettere in discussione la costruzione, perché mi portava a recitare in un modo diverso. Ed è stato un viaggio interessante da questo punto di vista, perché navigavo senza riferimenti e mi lasciavo guidare, che è esattamente il contrario di quello che faccio quando dirigo, ovviamente, no? Chiedo che gli attori mi seguano, invece in questo caso non mi affido totalmente. Sei un regista rompipalle, però come attore vorresti? Tutti i registi sono un po' rompipalle, secondo me, e io lo sono come lo è lui, però qualcuno pensa che chi fa il regista, quando va a fare l'attore, mi dicono sempre: ma tu hai mai detto delle cose? Io non mi sono mai permesso di dire perché ho capito che so quanto è complicato il lavoro regista e quanto sei utile se fai una domanda in meno piuttosto che una in più, perché ha talmente tante cose da fare un regista, e quindi stavo nel mio e cercavo di fare il meglio che potevo. E cosa vuol dire girare il secondo e il terzo, concepirli, girarli insieme? Cioè, non hai mai sentito come una gabbia, come un limite? Cioè, in questo secondo non posso fare una cosa, oppure in questo terzo volevo fare così, ma nel secondo ho fatto quest'altra cosa e non posso più? No, è il contrario, è una grande risorsa, perché riesci a sviluppare l'arco narrativo su due film, il che vuol dire prenderti delle licenze altrimenti inconcepibili, che è il motivo per cui l'ho fatto, perché è un'occasione unica per me e per uno sceneggiatore di prendere e portare lo spettatore in un universo conosciuto, pur facendo tre film molto diversi. Nel 2, infatti, ci sono dei personaggi che non ci sono, che c'erano nell'1 e non ci sono nel 2, perché volevo che ci fossero delle grandi presenze nel 3 e devo quindi creare delle grandissime assenze nel 2. E che è un sistema tipico delle saghe, no? Star Wars per due film non ti dà Darth Vader, poi arriva Darth Vader. Cioè, è un modo per giocare con, insieme agli spettatori e a un certo tipo. È proprio un film che si rivolge intanto a me. Io credo che la mia generazione non è tanto rappresentata dal cinema italiano. E io, in maniera molto sincera, ho cercato di fare un film che andrei a vedere. E io vado a vedere un po'. Beh, sono uno spettatore, fagocito tutto. Però, insomma, le cose che a me piacciono, e a me piace tantissimo quando poi si gioca con questi meccanismi che sono, diciamo, poi quelli, tra virgolette, nerd. Domanda marzulliana, ma... è dietro più serio. Ma smetto quando voglio, è un auspicio o una convinzione per te? Guarda, ormai è diventato in realtà una cosa ancora diversa, nel senso che ne abbiamo talmente tanto parlato che questa parola, questa frase si è svuotata completamente di significato, è diventata un suono, che è così, è diventata un suono. Per me è il nome di un amico, è un mio amico. Smetto quando... Infatti noi lo chiamiamo Smetto, cioè noi l'abbiamo accorciato e ci diciamo no, che stai, ho fatto il 2 e il 3 di Smetto. E è una cosa strana perché a un certo punto i titoli vanno al di fuori. Io tra l'altro ero uno di quelli, mi autodenuncio, quando abbiamo fatto il primo non mi piaceva manco tanto come titolo, dicevo ma è un po' generico, non capisco, invece non mi suonava tantissimo, e invece adesso è diventato un unico suono. C'è la sensazione che il cinema italiano abbia finalmente trovato quella via del famoso prodotto industriale medio da grande pubblico, di intrattenimento, però di qualità. Cioè, non so, quella roba lì che per anni abbiamo detto non c'è, non la sappiamo fare, due camere cucina, eccetera, eccetera. Ecco, è così, io sono ottimista. A parte il grande pubblico, ancora lo dobbiamo sapere, quindi hai detto una cosa terribile. No, il fatto è che è ciclico questo. Noi abbiamo dato ogni tanto diamo per morto il cinema italiano... Di intrattenimento, di alto intrattenimento, ogni tanto c'è qualche rinascita. Io ricordo benissimo lo shock di vedere L'ultimo bacio, che era un prodotto di intrattenimento alto, impensabile, una commedia italiana avesse quel livello di messa in scena, poi è successo anche dopo, è successo con Perfetti Sconosciuti, l'hanno detto ciclicamente di qualche esordio, quando io ho fatto Nella Giulia mi è stato detto che era una commedia finalmente con un impianto. Viviamo di iniziative isolate, date però molto più dalla forza del singolo, di un gruppo di autori e di registi che cercano di fare un certo tipo di prodotto, piuttosto che da un'industria strutturata. E questo è il grande problema. Abbiamo questi picchi, abbiamo dei grandi autori che vincono i grandi premi, Garrone e Sorrentino vincono l'Oscar, facciamo proprio fatica a strutturare proprio da un punto di vista economico, perché nonostante tutto, rispetto ad altri paesi, continuiamo a perdere pubblico. Quindi vuol dire che questa strutturazione non è ancora compiuta. E questi erano Sidra Insibilia e Edoardo Leo, La Rosa Purpura, per raccontare Smetto Quando Voglio Masterclass nei cinema italiani. Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E noi invece diamo la linea alla viabilità, perché fra poco parliamo di cinema da vedere in casa e dobbiamo ancora giocare insieme con il nostro film misterioso. Restate con noi. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, alto record del mondo! Garozzo eccelle, la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci. E vi aspetta Olimpia, ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui, su Radio 24. La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea riprende, siamo al rush finale della nostra trasmissione, come sempre consigli per le visioni domestiche, il nostro DVD game della settimana scorsa, i vincitori, ma prima dobbiamo farvi ascoltare la seconda traccia del film misterioso di oggi. Vogliamo tutti e due la stessa cosa, no? Vogliamo abbattere le istituzioni corrotte che controllano la società. Io non sto dalla tua parte. Abbiamo parlato di cinema d'azione durante questa puntata. Ebbene, è sicuramente diventata una delle saghe, se non la principale saga di cinema d'azione di questi ultimi 10 anni, diciamo. Diteci di che film si tratta, di quale capitolo di questa nuova saga stiamo parlando, per provare a vincere uno dei due Blu-ray che fra poco vi svelerò il titolo del film, ovviamente. I vincitori li saprete la prossima settimana. Prima di passare invece a risolvere il game di 7 giorni fa, una piccola incursione nel musical per dirvi che da martedì 7 febbraio al Teatro Olimpico di Roma parte la versione, diciamo, la nuova versione, l'ultima versione, quella di Claudio Insegno, della Febbre del Sabato Sera, del musical tratto dal film mitico con John Travolta, che aveva già avuto grande successo nella sua passaggio milanese. Adesso si comincia a Roma appunto il 7 febbraio con Giuseppe Verzico nei panni del nuovo Tony Manero, e quindi, insomma, per tutti gli amanti della disco di un tempo, della Febbre del Sabato Sera, di John Travolta e del musical, è uno spettacolo assolutamente da non perdere al Teatro Olimpico di Roma. Dicevamo, allora, facciamo un salto indietro di 7 giorni e andiamo a sentire una clip del film misterioso della settimana scorsa. Mi sono nascosta! Ora conta fino a 10. 1, 2, 3, 4... E allora, avevamo detto che la nostra Miriam Lucchetti in redazione era stata molto buona nel selezionare queste tracce. Infatti molti di voi hanno indovinato, ma i più veloci sono stati Salvatore Lofino di Trieste, Paolo Loiaconi di Genova, che riceveranno Alla ricerca di Dory, il film con cui abbiamo giocato la settimana scorsa, il prequel, spin-off, diciamo così, di Finding Nemo, della ricerca di Nemo, che è tuttora, fino a questo momento, il maggiore incasso di questa stagione cinematografica. Uscito subito dopo l'estate, è ancora, con più di 15 milioni, vado a memoria, il film più visto durante questa stagione, ma chiaramente adesso vedremo dove arriveranno i nuovi protagonisti, e poi soprattutto La Bella e la Bestia, per restare in casa Disney. Da metà marzo si sono già aperte le prevendite dei biglietti, come si fa per i concerti delle rockstar, un'attesa davvero spasmodica. E allora, facciamoci raccontare i contenuti di questo Blu-ray Disney, Alla ricerca di Dory, dagli amici di Fil TV. E con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto per radioascoltatori. Sì, il film in questione riprende il personaggio di Dory, la pesciolina che, come il protagonista di Memento, dimentica continuamente le cose, co-protagonista di Alla ricerca di Nemo. Quando inizia a raffiorare in lei, in una scena quasi straziante, a ricordo della famiglia, Dory parte alla ricerca dei genitori verso un parco acquatico, dove le farà da guida Hank, un polipo dalle capacità mimetiche. Il film è veramente un mix di commozione e humor perfettamente miscelati, con una resa tecnica stupefacente che è ben conservata nel riversamento Blu-ray, un'edizione colma di extra, tra cui segnalo il corto Piper, che avevamo già ammirato al cinema, una serie di interviste ai personaggi del Marine Institute, interviste finte ovviamente, un focus sul complesso processo di creazione di un personaggio veramente unico che è il polipo, e un approfondimento sulla sfida di costruire una storia attorno a un personaggio che manca della memoria breve. Giulio, diamo un'occhiata anche alle segnalazioni dei film da vedere in televisione la prossima settimana, cominciando lunedì 6 con un capolavoro di uno dei maestri del nostro neorealismo, Roberto Rossellini, Viaggio in Italia, su Rai Movie alle 8:30 del mattino, lunedì 6 appunto. Sì, due inglesi in Italia e due inglesi in crisi in Italia. Lo stile è quello tipico di Rossellini, il risultato è lo scandaglio di due persone profondamente infelici che sono sconvolte dal contatto con una realtà profondamente diversa dalla loro. Sono attese laceranti, rivelazioni e un'ambigua liberazione. Rossellini aggredisce la realtà che riusciamo a vedere, lo spazio, il tempo, i volti, rivelando dei segreti che però nessuno era stato in grado di rilevare nel cinema narrativo precedente al suo. In fondo è veramente un cinema nuovo, alla base di ogni nouvelle vague, di ogni rivoluzione del linguaggio a venire, in quello che è uno veramente dei capolavori assoluti del cinema italiano, ma non solo. E invece nelle sale cinematografiche italiane, con Split, la sua ultima fatica, M. Night Shyamalan, il regista specializzato in thriller e horror. E allora, in televisione c'è la possibilità di vedere un suo film del 2008 che si intitola E venne il giorno, su Rai 3, alle 21:15 di martedì 7 febbraio. La gente muore, una persona dopo l'altra. Sono le piante a ucciderli. Shyamalan gira un B-movie veramente stilizzato, fatto di pochi tratti di autoironica elementarità. Il ridicolo qui è avvinghiato al terrore, il grottesco sfila in coreografie gore geometriche, tensioni costante e scomposte. È un film che veramente veste in modo sornione le vesti da apocalittico da scarso livello, con un animo artigianale e tanta credulità richiesta al pubblico, ma al contempo un film che stilizza in maniera cinica la poetica del suo autore, un autore che, facendo film di largo consumo, continua a studiare da sempre l'istituzione familiare americana, riformulando il mito della fondazione della comunità e della sua rifondazione. Grazie Giulio, allora appuntamento alla prossima settimana e un saluto agli amici di Film TV. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, come ci dicono le note della nostra sigla. Restate in contatto con noi tutta la settimana sulla nostra pagina Facebook La Rosa Purpurea Radio 24 e scriveteci anche che cosa siete andati a vedere al cinema, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Noi siamo qua per chiacchierare con voi. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.